America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I have my own views. I want to keep them quiet for a little while because if I ever end up in the midst, that would be a great achievement to get a real peace. And I want to meet with Bibi. You know, I'm going to. Bene, la notizia di ieri che in qualche modo definirà la settimana e dunque vorrei dedicare la copertina di questa settimana proprio alla notizia in arrivo dalla Casa Bianca è che Donald Trump è pronto con un piano di pace per il Medio Oriente. Jared Kushner, il genero di Donald Trump, ha lavorato per mesi a questa proposta, aveva accompagnato, ricordiamolo, suo suocero nel viaggio in Arabia Saudita, è un consigliere importante del presidente e insieme a Jason Greenblatt, che è il capo negoziatore di Donald Trump per il Medio Oriente, ha terminato quantomeno quella che sembra essere una prima fase importante di questo progetto. Questa notizia giunge alla fine di un percorso in cui, soprattutto in arrivo dall'Arabia Saudita, abbiamo visto una gran quantità di notizie strane, bizzarre, preoccupanti anche, che a questo punto cominciano a essere messe a fuoco in un contesto più d'insieme. Cominciamo dalla prima. Beh, ricorderete che a un certo punto c'è stato un mandato di arresto di 11 principi sauditi che rappresentavano l'establishment dell'Arabia Saudita, incluso il principe Al-Walid bin Talal, grandissimo imprenditore con grandi interessi in Occidente, ma anche nemico di Donald Trump. Attenzione, perché Al-Walid criticò aspramente Donald Trump e disse che non doveva neanche presentarsi come candidato alle elezioni. Forse sta pagando adesso il prezzo per tale impudenza, ma di fatto l'idea era che questa serie di arresti avrebbe preparato il terreno per un rafforzamento del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in questo momento è ministro della difesa, ha vari incarichi importanti, ma potrebbe diventare re. Perché vi dico potrebbe? Perché una delle indiscrezioni che ho raccolto qui, piuttosto insistenti, è che presto o tardi, qualcuno dice prima piuttosto che dopo, re Salman potrebbe abdicare nei confronti di questo giovane, un giovane di 31 anni, pensate, che potrebbe diventare per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita un re giovane. Punto numero due. Re Salman aveva chiamato il 2 di novembre il primo ministro libanese Saad Hariri. Saad Hariri è arrivato il 3 novembre a Riyadh. E dopodiché quello che è successo, lo dicono le cronache, gli è stato sequestrato il telefonino, di fatto è stato isolato, non c'è mai stata un'accoglienza ufficiale o formale e poi ha letto un comunicato e alcuni del suo governo a Beirut dicono che è stato costretto a leggerlo in cui dava le dimissioni addirittura. E uno dice, ma perché l'Arabia Saudita ha questa influenza? Beh, perché l'Arabia Saudita ha sempre avuto una fortissima influenza nei confronti del Libano e non può accettare, e qui arriviamo al terzo protagonista di questa vicenda, non può accettare che ci sia un rafforzamento piuttosto forte di Hassan Nasrallah, che è il capo di Hezbollah. Hezbollah è un agente dell'Iran in Libano. L'Iran ha rafforzato e inviato armamenti a Nasrallah e a Hezbollah attraverso la Siria. Per questo la partita siriana anche diventa chiave, perché uno degli obiettivi iniziali era quello di destabilizzare il regime siriano in modo da recuperarlo al mondo sunnita. Ricordiamo, il leader della Siria e Al-Walita non è sunnita. Ecco, in questo caleidoscopio mi rendo conto che può sembrare un po' tutto piuttosto complicato. I punti fermi quali sono? Da una parte un'escalation fortissima dell'Arabia Saudita contro l'Iran, colpendo direttamente Hezbollah, destabilizzando il Libano e costringendo le dimissioni Hariri solo su un punto, sul fatto cioè che non era stato abbastanza duro contro Hezbollah e contro Nasrallah, avrebbe dovuto combatterli ed espellerli da principali posizioni istituzionali che coprono nel governo. A questo punto non sappiamo cosa succederà, potrebbe esserci una reazione di Hezbollah, potrebbe esserci un attacco di Hezbollah contro Israele, Israele che a questo punto diventa, cose bizzarre della storia, in qualche modo alleato dell'Arabia Saudita ed alleato di Trump. E con questa azione di forza si vuole in qualche modo anche convincere i palestinesi che in questo momento per loro è meglio accettare un accordo che gli dia della terra, gli dia l'autonomia di uno Stato, piuttosto che continuare in una battaglia che alla fine porta solo destabilizzazione. Tra l'altro c'è un'opera di mediazione del governo egiziano con Al-Sisi che sta cercando di rappacificare Abbas e il leader di Hamas. Ricordiamo, anche i palestinesi sono divisi. Ci sarebbero molti altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho parlato di venti di guerra e dunque, beh, non posso che proporvi un classico del 1969, John Lennon, Give Peace a Chance. Everybody's talking about baggage and braggage and faggage, jaggage and this, that is and prismism, kismism. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!